Ciao, grazie. Avanti, patata pelosa. Pelosa, è una patata giovane. Pazienza e basta. Io me ne vado, io sono del ruolo, mi posso manco sera ad ascoltare lo discorso della minchia in questo cazzo di radio. In più stamattina sono andato a lavorare un po' così, come ti maleducato, gioco esploso. Poi io dopo che ho chiuso non ho più acceso. Oh, i vaccini li hai fatto bene. No, no, io ho chiuso, però stavo ascoltando altre cose, quindi niente. Capito? No, ho chiuso subito dopo di voi, non è che sono stato lì a polemizzare niente della giudizia, non me la fatto più cazzo nessuno. Vabbè, sicuramente, come ti la pensa in Italia, va. Non me lo posso più usare come a roba, romacchini, era un gabo malato che ho fatto i taglietti. Capito? La gente non è malata, deve andarci a fare recuperare. Invece di fare discorsi del cazzo alla radio non servono a niente. Lasciamo riprendere questa chitarra elettrica in viaggio. Avanti, chitarra elettrica. Ah, dove? Non è nessuna dell'antenna, la vibrazione. Ma è dove? Ma sicuramente gli è scesa l'antenna, capito, la vibrazione. Ma va a parlarlo. Dove sei arrivato, dove? Senti Massimiliano, a Domenico da lì, da vicino a casa di Antonio. Massimiliano. No? No, senti a Falchetto, ah ma a Falchetto, mi ha Domenico da quella zona dove sei adesso. Se ti sono leggendo, sono composto sotto l'albero della riva. Solo io direttivo allora, è Antonio. No, mi va molto bene. Noi di solito da lì lo accompagniamo, anche Antonio lo accompagniamo sino a... al secondo Ardara, tranquilli, senza problemi. La casa, ma non della macchina. E anche la macchina da lì, già esce bene, che si sotto l'albero della riva. Con l'antenna corta, sì, o con banana giù. No, un antennino piccolino, piccolino. Ci sono tre alberi di oliva e mi sono filato sotto. No, già va bene, già va bene. Sì, c'è 9.40 qua. Con questa radio. Ma io già dico, l'ala 48 che arriva di tutti 9.20. Sì, magari toccheranno un accello, non lo sa mai che cazzo tocca complotto del Mitterrondo. No, infatti non accello se non ti mandi ai chivi. Se ne fa che tocca se avrà fatto gli assi o sette giri. Oh, no, no, no, siete tranquillo. E già si ferma quando arriva a fondo scala. E quando facciamo prove qua, anche col grande, con questo, col tiro, lo riattacco, perché qua c'è l'amplificatore. Ecco, non ci arrivo mai a fondo scala, Ma quasi si va a fondo scala però, con il filo si dovega. E appunto, con l'ala 48 sono tutti cuscica, ti immaginate se attendo lo mio, che c'è 9.40 con lo Gamewood. Se attendo lui se lo sicuri e si tu la lampadina. Sono bella gringella. Mannaggia. Niente le banane giù. E se poi si addrizza questa banana è un casino. Ah, ce la succhiamo. E quanto ti arrivo lì, banana giù? Ah, la matta di Nevaria, burattè, 9.50. Non arriva l'antonello, 9.60, più di te arriva adesso. Ma quando ho messo quell'antenna, vabbè, è attaccato a me l'antonello pompone. Ma patata perosa, dov'è? Patata perosa, uomo scimmia, dove sei? Massimiliano, si vede a Domenico senza maglietta da sushi, vale bene, più lungo dei nostri, tutti arricciati, una scimmia a Bari. Un giorno ha detto, te la faccio la... ci conosciamo 20 anni, ha detto, te la faccio da me, ha detto, passatela in coglioni, mi ha detto. Sono lì, ho abituato a vedersi tutto con la peluria. Ah, un bel mica, un bel pari... Che sembrano capelli della testa, gatto, tutti arricciati. Ricciolino mette i dumi, che hanno visto i bererongi. Così è dove la richina, i bratti e a danare. Nella schiena, mi. Nella schiena, cosa gli ha fatto? Non è contango. Si era giù butto dal zavetto Mariscio. Se lui ci sono le iane lì. Guarda, è una cosa allucinante, Domenico. Infatti io, quando lui ci ha comprato il baracchino, assomiglia alla scimmia che ci accitta. Vero, Cardone? Cosa cazzo stai fischiando, fischiati i coglioni? Rispondi. Va bene, cazzo, va bene, per carità. Tu immagini, non è venuto a Sassari, ma ci vedi, io ci avevo il camion senza patente. Io senza lavoro e praticamente siamo andati a lavorare assieme. Io sono a fianco a lui e lui guidava. Non c'erano più mezzi lì da Podda e da niente. Si è risalto, si vazia, mi cazzo, va carità. È un pisciughe. Tipica. gente fischiando, Antu, la senti tu? Anch'io sento che sta fischiando, però non so chi sia. Avanti il fischietto. Vuole propagazione? Non so. Per qualcuno in qualche canale vicino, ma di solito col cable non sento nessuno. Se sento vuol dire che è nel canale riacente, ma già viene il canale ma rompi le balle, proprio non devi venire. Dove sei arrivato? Ah, perché non ti fischi la corna di tua moglie? Forse lo vedi meglio dello microfono, burro d'oni. Tranquillo, mi gradi. E che idea che uno entra a rilassarsi ogni volta in questa radio, ma non la posso più vedere, non credimi. Credimi, guarda, non la posso più vedere. C'è tanta di quella merda falsa e purida, gatto, che non ve ne vai a dirlo. Si conferma, veramente, guarda, ci sono momenti che proprio passa le dai, te ne passa anche tutta la fantasia di modulare, veramente, va. Di bolli ma bolli, c'è un bel mal di testa, Antonio. veramente di balle che c'ho. Dio mio, c'era tutta stasera. Tutti quelli che c'erano con l'eco. Ma abbiamo un capo di pepe. Allora, io sto più lento, mi vado a... Dai, però mi sta piano male. Infatti mi sono collicato e mi sono aumentato un paio d'ore. E poi sono uscito, mi sono fatto un po' di spesa, poi sono iniziato poco fa, sono messo bevendo la birra. E mi sono rilassato. Antonio chi? Fiaschetto. Con Antonio Fiaschetto, c'era l'ecco, guarda che va l'ecco. E mi ha detto forse in casera, tutto, uno si è parlato, tutti questi bo, mamma mia, ho detto, boh. Mi ha detto Antonio stasera, un casino vero. Ah, sui 45 qua, qua sui 45, durante il giorno si modula così, capito? Questo canale è canale che si modula così. Io anche ieri da chi è notte, poi mi sono spostato, poi al giorno mi sono spostato un palchetto sul 10, quindi quando mi sposto sul 10 cambio radio. Adesso non ne avevo voglia di accendere quello là, tanto sono da mangiare, sono a cenare. Allora ci avevo il timbro acceso e sono passato su 45. Vai qualche. Sono basso. Ha ragione, però cazzo, era mi va a vedere, ragazzo. Però io sono basso, sì. Sì, mi mostro dove faccio dove sono, e si la bilena. Troppo casino, dai. Vai, attore. Ah sì, ma ci vedi a tui. Chi te ne vai alla matta? Perché? Cazzo, Massimiliano sotto l'albero delle olive, sotto di te chiaro, non ti attrezzato no? A me? Non arriva. Ma adesso siamo usciti da sotto l'albero qua, gatto. E sai che avviate per piacere, che già siamo in tempo di segnare in Dora. Qua siamo all'incrocio dove c'è la SIP. E praticamente davanti a me insieme. 9.50 sì adesso, 9.50 già. Cazzo, perché la gente giù? Oh. Ah, la copertina mi ha messo. C'era già nel suolo, Questa gesso a metà, perché questa antenna non vorrei ci sono una pippa. No, a forte. Mia domenica, ancora va a vedere. Buon domenico, dai, se mi stai ascoltando qua. Chiesa di Falchetto, se tu senti Radio Bulgaria al massimo ti saluta, cambio passo. Ma ci vuole, no? Cazzo quanto rula, io qua se non lo ricevi, non ci credevo non avrebbe più modulatore, minchia. Io ma questo si vuole. Il riposo da me, sì. Sentito, che sono rientrato qua in mezzo al palazzetto. Ha detto che ti ascoltate forte pure. Oh, io scendendo sto là in Cinepro da parte mia, mo facciamo carichetta e ci sentiamo, dai. Buona serata a tutti, Bulldozer vi saluta, capo. Ho raccolto di comune, sì, no? A te vengo che non si andendo la per strada, gira da sinistra, Ehi, già ti ho capito, sì, ti ha detto che ho raccolto in comune, sì, no, la mazza di Nevaria. Adesso siamo un paio di giorni, oggi siamo saliti a fargli vedere la bambina. Tutto voglio, dai. Ci vediamo, buona serata, buona carichetta, cambio controllo io, veloce. Ah, Davi, cosa controllo che sia fondo scala, passa via, salutami San Francesco. Ciao, Massimiliano, avvia dei mesi, cazzo, il marrelli tutte e nove. Ok, dai, ciao, buona serata, dai. Ciao, Massimiliano, ciao. Cazzo, 9.50 da casa tua, me l'hai risolto qua, col Kimbo, cazzo, ma come non va a violare al 48, se non mi scelgo di legge. Ho visto, Sto a essere forte, allucinante. Oh, motopompa, aggiungi tu i sul ragno che hai piazzato, ma c'è un incrocio tra un'antenna e una geranda. Proprio 27 anni quella, e poi a fianco c'è la bazooka, vista lei. E io la bazooka c'era, non la conoscevo con l'antenna, davvero, bellina. Poi sono esaustito, e tutto cazzo mi ha cresciuta questa antenna. Poi mi sono girato, così ho visto i radiali. Ed ecco, ma quella c'è la falchetta, un altro solo antenero non ne avevi che l'hai messo all'osso. No, bianco, veramente. Devo scendere da giù adesso domani, perché mi ha fatto incazzare. L'ho staccato tre volte da solo. Appoggiamo il palo in terra con i radiali, salivo sopra, facciamo le cose sullo stilo. Scendevo giù, col palo normale, un pezzo 1-1. Mettevo l'altro pezzo, aspettavo il palo, 1-4, 1-8. Boh, alla fine mi sono incazzato di dire, qui c'è qualcosa che non va. Ho controllato, c'è il palo sirato, c'è. E qui devo cambiare il palo, capito? Infatti è bassa, questa è bassa. Io l'ho visto, ma c'è vecchiometro, 8 ne ho di portatili, 8, 4, no, 5, 5 in V e 3 in U. Sì, l'orecchione, bastava chiamarmi, uno su e uno giù e abbiamo tarato tutto. Un altro isolante vulcanizzante ne ho quanto per voi. Sì, un orecchione, e cosa vuoi ti dica? Ma perché palo ti serve? Ne ho 7-8 in massadami. 2-20, 2-2, 2-3 scopi ci sono dei falchetti, ve li ho promessi. Un altro ne ho a casa di Luca, devo passare a ritirarmi, le altre due ci do su, se ti serve il palo. No, no, il palo ce l'ho, claro. C'ho in campagna, già lo sai che c'ho 8 metri di palo in campagna, devo tagliare, scendere giù e tagliare con la mola, capito? E devo fare anche i buchi nella parte della finestra, vicino alla finestra che c'è nel salone. Quando vieni qui lo facciamo la trattura, non adesso. Appena mi faccio trovare legato la mia stanzella, due minuti, con l'acido chimico, perché questo è forastino, quello che c'è, quel capito. Appena sono pronto ti avviso e così facciamo la tarantura, se ci vuole. Se non ci vuole pazienza, al limite ci prendiamo un paio di due o tre birre, quelli che sono anche cinque, non ne frega niente. Appena sono pronto ti avviso, là. Avviso, ma tu hai caduto, stai sale scende. C'ho i portatili, quelli civili della Zuffa, li tengo io quelli. Non li lascio giù. Man mano che sono carichi, non siamo di servizio, li porto. E poi c'ho tutti i miei, ne avrò tra quelli e gli altri, ne avrò qualche 12, 13. Quindi uno giù, uno su, uno portatile, uno portatile e si farà bene l'antenna. Poi si vulcanizza, per bene, si mette un altro isolante nero, no, cazzo, un altro isolante bianco, mi pare il cazzo bandiera bianca, mi arrendo, vai perché. Avvio. Beh, le cose si fanno bene, là, è giusto per non far vedere agli altri che questi nastretti bianchi, rossi, kappa, là. Basta chiamare, non ci sono problemi, non ti preoccupare, Antonio. Già lo sono preoccupato per questo. Ho messo quello rosso perché non mi ricordavo, l'avevo messo un altro bianco, ho messo il rosso, l'ho bisogno. Comunque c'ho importanti vicerioli, ho quattro, c'ho quattro PMR, due a polso di quelli all'orologio e due portatili normali, problemi importanti non ne abbiamo, proprio per quello già ce li ho, capito? Vabbè, potevi chiamarmi comunque la mano, te l'ho pregato. Potevi chiamarmi la mano, te l'ho pregato, non sono problemi, già siamo vicini, no? E tanto conoscete a me, tu la mano me l'hai detto. Una mano mette il forchetto e il piede mette coso, come si chiama? Rollo. E poi rispondi tu al telefono. Sfai dice mia figlia al telefono. Paroggi. Infatti c'è meglio la bazooka che la 5-8, la cosa peggiorava, perché ho fatto la prova da Gio Maria arriva 9.15 con la bazooka e con questa 5-8 arriva Santiago 9. Ho fatto la prova stamattina, anche io arrivo più forte con la bazooka che con la 5-8, è strano, una cosa ben strana. E la bazooka che volava Giuseppe, da Giuseppe non dice nulla, qua c'è bene. La bazooka è attaccata a un piristrone di ferro, di quei piristrone di ferro, quelle lampade alogene che ti metti dentro il salone, che vanno a 12 volte, sono di quelle, un piristrone di quelle, in ferro. Ah, ho capito. No, ma lì se metti un bel palo, Antonio, non ci stanno problemi, basta mettere un bel palo tranquillo e sei sereno. che adesso appena passa un po' la pioggia, facciamo la stampa nel muro, mettiamo le gaffe, quelle a cosa, quelle come si deve, portate un chimico, è proprio il problema. Ci parlo già, ne ho campagna, sai quanti pollici ho buttati, un pollice e mezzo, un pollice e un quarto, un pollice, dopo quando voleva i tubi d'acqua, pigliava, ce li portava in campagna, sai quanto ferro ci ho buttato, con un camion un giorno, ma quintali di ferro. Ma poi come l'ha battuta addirittura c'è rimasto uno di quei piedi di scavatrice, ce ne presenti, quello che ti metti dietro, uno di quelli c'è addirittura. A voi, non ti mancano un pale all'ottona, già va bene. Sì, ma diceva un bel palo che non sia rugginoso, che non abbia dispersione e niente, e la cosa è positiva, capito? Quando poi la mano chiama Claudio, che poi Claudio si mette in contatto con me e non ce ne stanno problemi a tornare, già lo sai. Io lo so. No, ho pensato a veloce, la verità, l'ho pensato anche da solo perché c'era, dovevo venire mamma a cena, io dovevo incalare veloce questa antenna, capito, che se la vedeva magari mi dia cosa, invece poi l'ho fatto uscire fuori, tu mamma guarda, mi ha detto, mi hai regalato, mi ha detto, mi principale con questa antenna, gli ho detto, ho preso la stessa antenna in basso, non mi alza, la verità, la buia, non sono rimasta nel domani, mi ero lasciata bassa, poi mi sono accorto di questa storia strana, e se la sollevo di 1,5 metri salgo la stazionaria a 2, e se la passo di 1,5 metri scendevo a 1. Infatti il colpevole guarda un sacco, così come adesso non fisca è perfetto. Se io sollevo il palo di 1,5 metri, c'è la buona notte, salgo da 2. Quindi il palo è l'altro che dove c'è l'esercato senza massa. Perché in pratica è un pollice e un quarto, e il primo pezzo è un pollice e mezzo il secondo. In effetti c'è magari poca massa, dai. Ma già si può risolvere il problema, Antonio, non c'è problema, dai, già si risolve. Vedrai che si fa un bel lavoro, dai. Sì, dice che non mi trovo a pensare un palo di scopi così, dove lo devo pensare nel muro, no? E solo come la terra, la terra me la trovo l'antenna. L'ho fatto una volta, lo sbaglio, di comprare il palo 8 metri. E da GBC dietro là mi fa lo buono, lo sono lì, sì, non ti preoccupare, il vento non te lo taglia. Vado, installo l'antenna con Gianni Bravo 2, e lo sta Gianni. E tu Gianni, ho detto, salito 8 metri, detto, non mi fido, detto, molto la verità, detto, perché non ci sono tirate, detto, lasciamo, detto, 4 metri. Ci ha fatto bene. Poi c'è stato 4 metri, dopo 2 giorni, arriva questa passata del vento. Prima ci ha portato in terra l'antenna di Piaggiacomo, la disintegrata, la diamo una nuova, aspettato la settimana prima, figura di tu, che costa 200 euro fare con l'antenna. A me, le domande che a lui mi dice, l'antenna mi dice della mantola a me, e mi ha stato culone, che la mantola il pezzo dove si è staccato, staccato, piegato proprio, e l'antenna è caduta sopra il tetto, è ricaduta e non ha spaccato i radiali, infatti i radiali erano, lo stilo toccava il tetto e i radiali ci mancavano 15 cm a toccare proprio la pergola, e quindi ne sono uscito indenne, capito? E gli altri tre pezzi li avevo conservati, sono quelli lì, infatti hanno più di 6 anni questo palo qua. Oh, certo, non è quanto ho pagato, il palo da fisarlo io, no? Quanti anni sarà? Ero 3 anni via Pascoli, 3 anni, sarà 4 anni fa, 4 anni fa 70 euro, cos'è? È un palo di quelli che mette ormai mai Vittorio per fare i ponti radio, ne hanno avanzato un paio e uno me l'aveva lasciato a me, 6 metri, parte da due pollici a un pollice, ma lo sai che anche lui, io non ho tiranti nella mantola, niente, non ne avevo neanche via Pascoli, il filo che si vedeva era di polo attaccato lì, non ho mai messo tiranti, mai, capito? Mai tiranti in quel palo, è una cosa allucinante, mica il vento ne ha preso, ma un bel. I pali vogliono buoni, grossi, non come quelli delle antenne TV, che qualcuno ha montato la mantola, vabbè. sentito le code, guardate, è stato, mi sembra, forse 6 anni fa, quel vento molto forte che c'è stato per un paio di giorni. Si è buttato giù l'antenna di Pier Giacomo il giorno prima, la diamo nuova notte, è stata la settimana prima, figurati. Dopo l'ha buttato giù la mia. E sono stato fortunato che io la Mantova 5 l'ho recuperata tutta intera, non si è spaccata, e ancora avevo veduto, avevo pigliato la Mantova turbo, l'avevo pigliato, avevo installato quella col palo come si vede, avevo comprato un palo di acqua di quelli normali, da un pollice, 3 metri, e me l'ho passato dalla, siccome la scala non ci passa, allora l'ho fatto dal terrazzo. L'ho agganciato con una cosa, ci ho sentito il tetto, capito? Buone voglio imparare, adesso lo solleviamo con le falsette appena calma questo tempo di merda. Le lascio uno, quello grosso a piantone, che le do io, e gli altri li butto dentro, lo solleviamo di altre 4 vite. Si mettono 3 tiranti, le ruote ponente maestrale, e lui a posto, gli rimetto a metà nell'innesto del tubo. Ma vaffanculo a te, che ti mai batte sul carro, le prendi a tu. sì, ma è così. Beh, per la fortuna tua che non si è spezzata l'antenna, è stato fortunato per quello. No, volevo dirti, Claudio, quando abitavo nella casa vecchia, c'era un'antenna, se ti ricordi, dove stavo lavorando io, abbiamo fatto una palazzina nuova, no? Dietro la vecchia casa tua, per andare lì a, come si dice, alla polizia. Era un'antenna tutta quanta storcinata, ma c'era qualcuno che modulava lì. Che cosa? Dove abitavi tu, dove avevi l'antenna tu, no? Però dietro quella via che sale per andare alla stradale, c'era un'antenna lì, era tutta storcinata, ma c'era qualcuno che modulava lì. Non lo so, no. Io quando sono arrivato lì ho visto questa antenna che era a fianco a me, ristorante fasciata, non c'era neanche il cavo. Qualcuno che abitava lì pure l'ha lasciata per un'uscita, mi pare che sia una via 27 L anche quella, perché fine. Infatti giù, se chi ti modula c'è la biglia buona, si è attaccata a me, proprio a 5 metri era. Infatti, è quello che ti volevo dire. No, lui, ho visto che non avevo problemi. Mi dispiaceva perché non potevo usare i baracchini come li uso qua, perché cazzo ero circondato da randaggi, quindi chi parlava in un canale, chi parlava nell'altro, alla fine c'avevo tutti i baracchini dentro l'armadio, adesso quando sono qua li ho tolti tutti, li sto usando tutti, non tengo nessuno. Tutto lì. E adesso vediamo se a fine, non so se va via a settembre, l'inquilino dove c'è, non lo so, devo scenderci a chiedergli a vedere. Ah, è che ha pagato. Sull'autopista tedesca. Poi si vedrà cosa fare. Beh, internet è duro, eccetera, eccetera, guarda che Cino mi sta chiamando. Io vado a cenare, sono le 9, se ci siete mi fa piacere, 2 chiacchiere anche dopo, così rilassati e tranquilli. Se non ci siete non fa niente, vuol dire mi gioco drumido, anzi se non ci sono vuol dire mi gioco drumido. Ehi, Claudia, buona cena, buona carica, buon tutto, eh. Se non ci si, abbiamo capito, c'è stanchezza e via dicendo, va bene, salutone Claudia, se al limite non ci sentiamo, ci aggiorniamo domani, dai. Vai, buon pofo. Ciao Claudio, buona cena, al limite, se niente, va bene, pazienza domani. Va bene, ciao, c'è, ciao. Avanti a tu. Ui, ragazzi, state andando. Ehi, se ci siete già entro dopo 2 minuti, se no, pazienza. Se no, Anto, già lo sai, scivola. Aia. Ciao, Claudio, buona carica con tutto, dai. A più dopo, se coincide, se no ci aggiorniamo domani, dai. KK, bene, vera. Propagazione c'è ancora, la verità è nessuna. Questo dovrebbe esserci i tedeschi, più o meno, dalle 8 alle 8 e mezzo. anche 8,4 per la gazzetta, perché Simone si faceva 10 con la Germania, sarei 8,4 e 8,5. Ma guarda, io ho fatto un bel QSO poc'anzi sul canale 27 con quattro barigina che arrivavano, che erano una bellezza, arrivavano che erano una bellezza, 9,20 chiara, pulita la voce, guarda, e invece io ne arrivavo un segnale di 7 e una radio di 5, bella, proprio bella, bella, bella, bella. Abbiamo fatto un piccolo QSO, ma 3-4 passaggi così, proprio alla grande, proprio veramente alla grande. Sicilia tutti i giorni, poi Bari, allora in Bari, la Puglia, a volte Piemonte e la Lombardia, dipende, però Genova, cosa del genere, non l'ho mai sentito, Genova, Roma per dire, poi c'è stato un periodo, di quello lì, allora io sono andato via da qua, sono già 2 anni qui, quindi sono 2 anni di là, 7 anni fa, capitavo qui, parlavo tranquillamente con la Russia, con Mosca 9,20, figurati con la Mantovazzo, 9,20, e tu ci ha parlato mia sorella perché non ci creva, sembrava un coso, un pugliese parlando, parlavo stato bene italiano, aveva una radio amatore, sul video diceva la Russia, adesso non l'ho più sentita. No, io qualche volta già la sento, la sento la Russia. Però è raro, infatti è molto raro, adesso sono da parecchio che non la sento neanch'io, la verità. No, ma già ci sono delle zone quando è aperto, guarda che arrivano belli, chiari chiari, tutti ben puliti, ordinati, o si scambiano uno con l'altro, no, veramente, così si può modulare, vedi. Ma quando si accavallano, specialmente quando si accavallano uno sull'altro, non ne capisci niente, dai, non ti dà cuore neanche a modulare, capito? Perché uno chi è più forte si cerca di passare l'altro, capito? Ed è un casotto. Quello sì, comunque tu sei molto aperto per la cosa. Spagna, Brasile e basta. Sogno per dire le cose, e gli Stati Uniti si è molto aperto, perché io mi sono fatto 10 da mia licenza con gli Stati Uniti, solo una volta mi è capitato, dicevo 100 watt, e basta, quella zona è molto aperta, c'è il canalone in pratica di dopo Calghiero, c'è un canalone che da lì piglia tutto, capito? Sì, io ho parecchie zone aperte. E quello che magari ho, perché l'antenna è bassa e cosa, un po' diciamo verso Castelsardo, dove sono un po' chiuso, poi del resto sono aperto sia al Ghiro sia a Bonorva, Macomere, lì sono tutto aperto io, capito, tutto aperto, e Urbia è un po' difficile, vabbè, magari sollevando l'antenna qualcosa si risolverà senz'altro. No, dobbiamo ci arrivi, scordatelo. Ma tempo può arrivare, tempo sì. Ma vabbè, proprio scordatelo. La zona dove sei tu, anche io sono fatto, io sono stato a Mortese dove sono adesso, non fossi stato sul centro ecologico, allora siamo stati chiati davvero. Perché c'è un punto vicino al centro ecologico dove sono quelle villette dove andavo io in macchina, figurati con la... per rompere le palle Alghero, mettevo su al centro ecologico, ma non dove c'è dove gioca il pallone, no? Quasi all'interno, a metà, tra lì e Monte Bianchino risulta, c'è un pezzo al centro che è molto aperto, e da lì, vola lì, ammazzi chiunque, ammazzi. Solo lì le ville costavano 500.000 euro, costavano, per il rifugio. E il PV si è trovato incolato, perché si è comprato quella villa lì e scendeva l'acqua dentro casa. Ah, La truffa c'è sempre, la truffa c'è sempre. Guarda che lì si è comprato la villa, il padrone del bacinetto che c'è lì a Corsa. E ha trovato che ci ha aspettato a forte lì, perché gli siete parlato qua dentro, io lo dico. Io ho scoperto che c'era la villa lui perché un giorno sono andato con Angelo Delfino e Daniele in questa vedetta qui, che c'è il cancello elettrico, figurati, e detto che il padrone va diretto, insomma ormai avrei saputo una cosa del genere. Dice ci stava l'acqua letta, era in pratica un villone, diciamo, diviso in due. Capito, stessa struttura, sia a destra sia a sinistra. C'è la cantina, il piano terra, diciamo, primo piano, e poi c'è direttamente la passata. Così è fatta anche la parte, è uguale. Si è pagato. Ha capito. Pensava che voglia ce ne esce di quello io pure. Quel bar lì, bar di Lepro, è una banca, è una banca. Poi c'è 500.000 euro qua dentro la casa. 500.000 euro viene scendere qua dentro. Come dice, ho preso lì c'è l'inculata. Mi ha detto, ma scende l'acqua dentro a casa, dal pezzo. E come fai a scendere l'acqua dentro a casa adesso? Dice, più che l'acqua dal suo mandito. E io dico, strano. Infatti già dico, sempre tanto, c'è stato verde, e c'è il cancello elettrico piccolino, capito? Quello è, cioè, all'interno di dove quello dice la farina c'è. Lì è un pezzo veramente bello per mangiare. Lì avendo una villetta, di lusso vive, non c'è neanche bisogno di salire a cosa in casino. Essere d'aperto sì. Essere d'aperti è ovvio che non c'è bisogno di salire l'antenna alle stelle. E se è aperto vai dappertutto. Dipende sempre dalle zone, attore, dipende sempre dalle zone dove se c'è la zona aperta, zona chiusa, dipende, capito? Lo so. Ora c'è la casa lì vicino al centro ecologico, una casa in campagna, c'è quella piscina, un amico di mio padrino, che poi è morto. Secondo quanto gli ho chiesto, Luigi, Mamma mia, moro, mi ha passato una città sulla. Se vedi una bambola proprio, dai, se gli metti la bambola lì. Oh, io, attore, non fa modulare. C'è ancora la popolazione, c'è, allucinate. Sento più, c'è cosa tengo due, cosa, quanto è vedendo così. Quindi figurati. Sono sicuro che a me, ma come sente? Lo gigante si è dal lavoro che dai smarmite. Lo gigante, senti tu nipote che smarmita sulla mora colori in verga. Tu non c'è. Che fanno di banca, Emi? Cosa ne dai? Sono 9 più 20, allucinante, cazzo. Mi riesco a prendere. Lo c'è. Che sta chiamando le palle? Capito che penso di ponte. A me. Chi è che chiamo Dodo? Ciò che è? Fuori tutto, mamma mia, che napoletano, ragazzi. Roba mola. Tutte nude. Teso la cosa ha detto. Io già l'ho sentito già. E tu sei molto più attento di me in ricezione, perché io non è che lo sento molto così tanto alto. Anche perché l'antenna è bassa. Quando la sollevo, vedrai, non lo sento niente. No, io sono col mobile qua, rilassata la modulazione, no. Se attacco l'altro già mi sente, ma non ne ho voglia, dai. Non ne ho voglia perché... Non ne ho voglia di parlarci, che è troppo casino, a me incabuliamo, che è vero, non mi piace molto, La verità a me, quando la modulazione è rilassata, mi cazzo di quando si accavalla uno con l'altro, solo mal di testa nel fatto. Tu che hai fatto a me sta pronzando, di quei bu, non so parlare, mamma mia, ma infatti così fai, no? Ma ne va, perché non si può così, mi viene un capo. No, lo sai cos'è, magari loro sono vicino e si sentono, noi siamo lontano e sentiamo a tutti lo stesso, però come fai a modularci? No, non mi va, vedi, adesso è entrato Pinocchetto, per esempio. Sono entrati anche loro, l'hanno coperto, vedi, è già una cosa che è fastidiosa, dai. 32, gigante! Ah, per quello sì. Io mi ricordo, non mi sentito. Ma chiamano se c'è ancora. Grandio! No, con questo no, e cosa lo chiamo? Grazie a me che era arrivato 9:20, no? Come fai a chiamare Pinocchetto? Io a Pinocchetto lo sento Santiago 3, 4, non di più, capito? Quello le mette due volte la coperta e non va bene, dai. Ma quando è più rilassata la modulazione va bene a chiamarlo, ma quando c'è questa popolazione così, no, non fanno, Antonio. Per quello sì, è vero. Quando sono ragazzo in spagnolo che sono normali, parlano, non lo so parlare, ma parlano una distanza dall'altra. Così è bello, con Brasile magari parlare, e ti diverti che. A proposito, ma quella ragazza spagnola che ci parlava molto, ti ricordi, che fine ha fatto, non ti sentita? Dai, io l'ho sentita, se non vado errato, 4-5 mesi fa. 4-5 mesi fa, ma un passaggino così poi mi è sparita, mannaggia le pecorelle, non l'ho più sentita. Adesso non so se ci sia ritirata o magari stia modulando in altre frequenze, perché non l'ho più sentita, la verità. Pure qualche QSO l'ho fatto e non è che non l'abbia fatto, però lì non l'ho più sentita, la verità. E anche io l'ho fatto con quella canale che avevo, la verità. Ci vuoi vedere? Perché ti chiamava italiano matto, Non è altro, Anami. Sembrava che ti chiamava, e tu ti chiamavi, e prima ti chiamava. Falchetto. E non la parola, Giulio, perché si è innamorata subito questa. E a parte quello, mi diceva italiano loco, attivamente, italiano loco. E io mi veniva di lì, mi pure arrivi, ma loco in spagnolo vuol dire scemo, mi capisci? Ehi, io lo so, già. Infatti, guarda che ne fai quello. La settimana che si è parlato anche io un paio di volte. Due volte mi sembra che si è parlato, due o tre volte, non di più. E ti ricordi, una volta ci abbiamo parlato assieme, che te l'ho passata, e ci hai parlato, e tu già lo parli bene lo spagnolo, già ti puoi capire. Allora mi dice, Antonio, italiano loco, e io, il culo della loco. Sei mette di quelli, poi fai l'Italia, sai che ha fatto, poi ha mudato tutto, ho cambiato stemma. Ma dice che non è neanche sposato, così diceva lì poi, su Facebook dice l'hanno vista lì con in braccio con una bambina, adesso bisogna vedere se era la figliola o chi fosse, la nipote, non so. La pizza, ma non me ne frega niente, se vuoi tra, tra, se non vuoi tra, mai non mi interessi molto, che, io ho famiglia, non è che sto a pensare a Lino, cazzo della puttana. Per dire, però era simpatica perché ci potevi far modulare tranquillamente, dai, era simpatica, tutto qua. Beh, quello sì, io me lo ricordo anch'io. Abbiamo tornato su Facebook a cercare una persona, la documania. Il computer già è fermo lì, ce l'ho a casa. Mi hanno recuperato l'altro, un pezzo di me l'hanno recuperato. Non è che puoi fare distanza, è piccolino, capito? Non posso attaccare da... come si chiama? La... posso andare su internet, ma non posso agganciare la, la cam, perché non ce la fa. E quindi... non mi dà la cara, infatti te non c'è un soldo per farmi il conto, che non lo voglio regalare con la pena al mese a nessuno per andare su internet, non me ne importa proprio niente. Ma non devo voglio ripiglio la chiavetta, poi a 10-20 euro mi faccio un giro e mi mandano qualche cosa sul computer e basta, e me la faccio mandare. Poi del resto non mi interessa, già c'è il baracchino. Se vuoi andare a conoscere le ragazze, già c'è tutto ciò che è pieno di ragazze. Ah sì, quello sì. Non c'è il motivo e nel luogo di ciaitare, di fare. A me, guarda, non mi piace. La verità si dica, a me il computer proprio è una cosa negativa, ma non perché non lo so usare, attenzione. È perché non mi piace se stesso il computer, capito? Non mi dice niente il computer, capito? Invece il baracchino posso parlare, discutere, fare un discorso. Con il computer cosa fa? Discorsi fa, è lui. A parte lo sai che c'è dietro, potrebbe essere magari anche qualche mania, cosa ne so, se è per casa tua e a parte i furti di identità che ci sono, capito, c'è poco da filare, è molto molto attento il mio computer, purtroppo. Il RAM da battaglio, è bello sì magari, però trovi sempre la persona che ti incura. Sì, sì, sì, poi non è nel primo e nell'ultimo ma è curato, lui ha. No, non mi va di mio, capito? Non mi va di mio avere il computer, se no me l'avrei anche potuto comprare, ma non mi piace, è una cosa che non è più forte di me, non mi piace il caghini, i tasti, i tastini, i tastiere, ma che si dà mica no. Qua schiaccio il tasto, muto, rimuto, stacco il tasto, ascolti e via dicendo, è tutta un'altra minestra. No, no, poi la passione, la mia è questa, no, computer proprio, no, non me l'ha potuto Antonio, no, non mi è mai interessato, penso che non mi interesserà il futuro, ma come sei nel gioco, mi guardo un po', tutto qua. Vabbè, la mia passione è il baracchino, le donne, la birra, il cane, la verità è... c'è la famiglia, non interessa altro. Poi lo sapevo pure il conto mio. Sono fatto così. Quante volte mi sono ripetito, ma anche parecchi, ma è tanto tempo fa mi sono ripetito. A parte anche le amicizie che ho conosciuto, mi ho conosciuto anche amici come si deve, anche amici anche strani. A baracchino, però la maggior parte come si deve, poi si è fatto, c'è una bella, mi è rimasto sulla memoria un bel ricordo, ho capito, di chi è conosciuto. E mi sono sempre divertito, ci sono quelli che sono così e quelli che sono così, come tutte le cose. Io mi ricordo, guarda, una persona particolarmente, Andrea Manicomio, guarda, con quello ci siamo divertiti alla grande. Parte era anche una persona conosciuta in verticale, bravissima persona, la verità, molto molto stimata. E mi dispiace che abbia mollato, la verità, perché Andrea Manicomio, già era casinista, la verità, però era in gamba come personaggio, dai. Sempre stata una persona adotta. Per me io l'ho sempre considerata una persona in gamba. Al di là del fatto di averlo conosciuto in verticale, cosa. Tu pensa che quando stavo piazzando il baracchino, la prima persona che ho conosciuto è a lui. Pensa poco. Prego, prego, prego. Io ci ho fatto di vestito. E io lo so già. Veniva il negozio, scrive così, veniva il negozio lui spesso, e veniva il negozio anche tu a trovare, poi veniva anche un sacco di cibi venivano a trovare il negozio da usare. Ma poi c'erano quelli altri di Osi, cosa, i due gemelli, Ercoles, sono i conti di Osi lo stesso, quindi io dico, avanti Antonio Benetrano. Parolgi, ben sentiti. Cordializzati da questa parte Antonio Ingrotte, se non sbaglio c'è Falchetto e c'è Pomponio, avanti Falchetto. Ehi Ingrotte, ben sentito, ben entrato. Sì, così è. Ehi Antonio, no, ben ricordi, la verità c'era più fratellanza di tutto. Oggi ne puoi contare le persone con le dita e basta, tutto qua. Riprendete la grotte. E allora che si dice grotte? Un attimo, questo, scusa. Sì, leggermente è stato grotte, non so cosa cazzo hai combinato, ma sì, leggermente è stato stasera. O sono io che ho baracchino saltano, oppure voi, ti sento così. No, Antonio, c'è ragione. Stavo facendo un salto, dovesse che il progetto non è andato bene. Vero, è grotte, aiutate una regolata. Sto mangiando, c'avevo la bocca piena. E se abbiamo mangiato pizza, sai, È panino con prosciutto e formaggio filante. Non si parla a bocca piena, grotte. Non si parla a bocca piena. Si tratta bene. Ho visto il panino con prosciutto filante. Mi sembra che avete inserito i panini ortega ancora, via Napoli, come potete dire questi panini grandi, buoni, mamma mia, quanti ne mangiamo un periodo, quando pensavo di inserire la bambolina faccio il panino, tanto quando guadagna quella panina ortega va in una buona. Hai detto, quella ragazza, quello lavora bene però, quello lavora bene, quello ne aveva uno a Torre, anche a Porto Torres, se sono mal errato, ne aveva, ce l'ha ancora lì a Porto Torres, ce l'ha lì via Napoli e ce l'ha a Porto Torres, e guarda che no, sono delle persone che lavorano bene e sanno il suo da fare, la verità, e ne fanno veramente buoni. Io molte volte vado sempre lì, quando devo fare un panino vado da loro, capito? Sì, e poi è anche bravo il personaggio quello, No, c'è in gamba, sono in gamba, di dire, perlomeno, sa che vive anche. Fanno panini molto buoni, fanno. Poi adesso c'è cosa, c'è il vicino. Quando c'è quella pizzeria di Diussi, la parola si sfida in pratica, adesso non so se sarebbe l'organizzazione oppure no. Che fa anche la stessa cosa e quindi sono in cosa tutti e due vicino insomma già lavorano tutti quanti tutti e due bene ho visto figurati in Corsica quando sono andato io 3-4 mesi fa c'era le pizzerie piene ma dove sono piene dentro fuori una di fronte all'altra e la gente fuori stava cercando un posto a mangiare che non riusciva né a sedersi dalle dove aspettare per forza tu figurati se nessuno si questi c'erano tra loro se, ma, tu c'era per te cosa subito di Emanuele tu immagini di posti di abitato Madonna è pieno di pizzeria e ristoranti, pizzeria e ristoranti. Pieno dentro e fuori. Ma una cosa così non l'avevo mai vista. E cazzo, sono certe pizze che fanno in Corsica, ti giuro, quello veramente, veramente buone. Sì, sì, ma ci credo. Sì, e poi lì, lì non c'è nessuno che non lavori, lì lavorano tutti di più, capito? Non c'è la gelosia di avere un altro pizzaiolo di vicino, capito? No, lì lavorano tutti. E poi la gente lì, uia, per la pizza ne va matta, eh. E io ti ho una bistecca, che bistecca ti danno? Non è bistecca di maiale, no? Fiorentina ti danno. Tu questa bistecca? Questa bistecca dice è per te, Martino. Dopo mi ho mangiato mezza pizza. No, tutti qui resta a fuoco. Allora piano piano hanno messo a mangiare, c'è un piccato, figurati. Chiudi 3-4 ore perché era minimo alto a 2 centimetri. Figurati un po'. Va bene, dai. Mi sa che io mi faccio la carichetta e ci sentiamo dopo, dai, riprendi il ronde e io tracco un attimo a fare un po' di carica, dai. Ci si riascolta dopo, Antonio. Sto rientrato. D'accordo, Falchetto, dopo allora. Rientrato Flavio, c'è cioè Antonio Verde, insomma, ma non è il mio panino. Fantasma, e lui tra pizza e panini. Tra un po' farà la fine mia, deve andare a tambullare. Radio Demone, ovvero... i panini, la verità, è meglio non mangiare mai. Mi ha parlato della cena, perché ti fanno male più che altro. Non solo la in California, che lui l'ha fissato per i panini, ogni giorno panini, panini, panini. Ho detto, quella che tu hai detto, quella che fa un po', ho detto, con questi panini di salame, panini fondina, panini prosciutto, ho detto... avere dei problemi, e così è successo, da quel giorno quando andava a mangiare, andava a mangiare direttamente, comprava altra roba, capito? Magari già pronto, fatto al forno, cosa così si mangiava, perché ci stava facendo male. Magari si fa quello che si fa. Lo so, tanto hai finito di mangiare. Anzi, ben sentito, ben ascoltato lo Sparviero, per buona carica batteria al Falchetto. Questo è un panino casareccio fatto con Samadrighe, perché io sono un po' allergico ai lieviti di birra e quindi è digeribilissimo. No, io già l'ho, da un po' di tempo sono a dieta ferrea e adesso ho preso la pastiglia del cortisone per questa infiammazione maggiore e quindi carne di pollo, carne bianca, grandi salatoni di salata. Insomma, ci abbiamo un grande lavoro a Catalzaro, non so se andarci neanche, perché se a pesce già posso mangiare, ma secondo quello che fanno è un casino. Va bene. Un bello Sparviero, però oggi ti sento particolarmente allegro, come mai? Allegro? No. Per niente, diciamo che sono stanco e anche un po' girato di balle. Va bene, io me la sono tentata, dai. Oh, Antone, coso? Antonello Barracuda, non si è sentito? No, non si sente per niente stasera, la verità, eh. Well, magari anche stava cenando, magari c'era troppo, di solito c'era entra sempre. Antonello Barracuda, leggi, di là la leggi io. Italia. Sai che cosa ha combinato? No, niente, già devo ricordare che c'era. Ho sentito i discorsi ieri, non mi sono piaciuti per niente. Ah, magari è stato messo in mezzo, non lo so. Lui aveva detto la sua, come bisogna avere, non lo so. Cava. No, pregando la gente, amicizia, di essere tutti uniti. Ce n'era fruttato. Sono persone con la quale uno non lega, come me. Quelle due o tre persone, quindi non è che deve stare lì a pregare la gente, a fare, lui faccia quello che deve fare. Vado avanti per la sua strada, tranquillo e sereno, senza nessun problema. Quello che si deve fare, che hanno deciso di fare, dove io non ci sono per niente, perché ho detto di no. Me l'ha già chiesto Antonio, gli ho detto di no. In non c'è bisogno di pregare la gente, pregare si va in chiesa, o no tu? Io credo che tu abbia sentito anche quindi la mia replica, che non è stata nello stesso momento ma un attimino più in là, e io ho detto che ognuno di noi ha il proprio diritto di avere dell'empatia o meno nei confronti di una persona, però l'unica cosa che dico, al pari di come si può dividere un canale o una frequenza, si può anche dividere un'associazione, poi basta sapersi sapientemente evitare, però rispetto anche chi vuol dire guarda, no, se c'è questa persona io non entro, poi non sto lì a mettere, se posso magari nel tempo cerco di inoculare un minimo di possibilità di riappacificamento, però se è vero che non ci sono le condizioni, basta, e io sono comunque amico di entrambi e ciccio. Sì, ma infatti ho detto, ti ho sentito, ma come lo stavo facendo, iniziamo a esagerare. Io ti ho detto con tutta sincerità e tranquillità che a me determinate persone non mi stanno manco al fianco, e quindi non ho niente a che fare, io faccio quello a modo mio, gli altri fanno a modo suo. Mi fa piacere che qualcuno del gruppo sia ricreduto nei miei confronti, e di questo ne sono veramente felice, ma con alcune proprio zero, sotto zero, capito? Cioè non mi interessa neanche, ma manco sentire la voce, figurati se mi metto a spettacolare. E quindi ti ho detto in partenza no, non mi interessa avere tramiti o persone che dicano qui e là. I discorsi sono chiusi e devono essere chiusi una volta per sempre. Io non ho bisogno di stare con certa gente, come certa gente non ha bisogno di stare con me, punto e basta. Quindi amici ne abbiamo tanti in comune, soprattutto io e tu, e tanto si va avanti per la nostra strada senza creare problemi a nessuno, e disagi soprattutto a nessuno. Quindi i discorsi per me sono chiusi, ma li avevo già chiusi da un anno fa, quindi forse anche di più. Non vorrei che si riaprissero perché io non devo chiedere niente a nessuno e soprattutto non voglio che nessuno mi chieda niente. Capito? Te l'ho già spiegato, no? Non mi interessa proprio manco parlarne più di queste cose. Poi sono qui proprio nei canali alti per non sentire manco volare la mosca. Mi diverto come posso, già l'hai visto. Non ho problemi di ecco, di balle, di boivara, quando mi voglio divertire mi diverto, quando voglio fare il serio faccio il serio. E ognuno fa quello che vuole, giustamente. Ecco. Avanti Beck. Questo non mi sente a me. Chiaro tu qua. Avanti Beck. L'altro amico, lo sento al sento partito, ma non riesco a tirarlo fuori. Comunque, salutami a tutti, da Massimo, da Istini di Attacco. Ciao Massimo, buonasera, ben ascoltato, prima della CC in macchina, Claudio Scoliviero da Sassari, compagnia di Antonio Grobbe da Sassari e Antonello Pomponio. Vediamo un po' chi ascolti, e Antonio vai tu. Massimo, se ho copiato bene il nominativo di stazione, ben sentito da questa parte Antonio Grobbe, ben sentito per la primiera perché mi sembra che non abbiamo mai modulato insieme. Vieni avanti e dimmi un attimino se riesci a copiarmi. Sì, sì, riesco a copiarti, c'ho del QRM. Tra i segnali, è quello il problema, o è l'antenna che ci ho messo vicino al tetto perché l'ho montata da poco e non è stato un problema. Patata scomplicata in prosciambro Italia, patata! Appena più bassi, forse la posizione, non lo so, comunque riesco a tirarmi fuori, pian pianino cercando di regolare abbassando l'RSG. Ok, riprendi. Ciao patata, buonasera, coordinate Senigallia qua, avvicinamento di zona Corsia Sud, se senti Nicola Gali promuove. Bella cosa che sta arrivando. Sì, vabbè, lasciamo il locale, no, non ci fa niente a propagazione. Sono rientrato, Ci siamo però mi sento nella condizione di dover spezzare una lancia nei confronti di Barracuda, nel senso che sicuramente l'ha fatto quindi bene o Clark. Poi non ho sentito il discorso perché non ero in frequenza, però la seconda parte sicuramente ha troppo, magari ha utilizzato le parole sbagliate, però l'intenzione l'ho fatto io, era più che tu. Pure Michele! Niente, è che quando ci vedremo di persona con Antonello, tanto mi sembra domenica, se devo dire che... sentire più niente, cioè continuano a parlare del passato, no? Non ha più nessun senso, capito? Io ci ho messo una pietra sopra come totalmente cancellata la storia, non voglio che si riapra, ti ho già detto quello che penso, sono felice veramente tantissimo che tu possa, assieme ai tuoi collaboratori, ai tuoi amici, a quelli che avrete avuto questa grande iniziativa, sono contentissimo che vada avanti, ma andate avanti per i fatti vostri, tranquilli e sereni, io non ho niente a che fare con le associazioni CB. E, tra l'altro con persone con la quale proprio hanno zero sotto zero, capito? Niente, io parlo con chi veramente può avere dialogo nei miei confronti e può stare al mio fianco anche con i pantaloni sporchi, ma la sassa di Dietrich non la mette, la muovi troppo, al buio fate di algo, capito? Quindi lasciamola stare dove. Però attenzione, aspetta un attimino, qui non mi sta sovramodulando nessuno, dicevo, l'unica cosa, tu hai fatto una promessa e io vorrei che la mantenessi, nel senso che a me sta anche bene che tu per questo non faccia parte dell'associazione, però vorrei che avessi una parte dell'esperienza che hai, quindi nel caso dovessimo fare delle lezioni anche su come si costruisce un'antenna, io avrei piacere che tu fossi, cioè le tenessi tu, perché io sono le ricette, su questo non ci piove, io ho una parola solo e quello dico che sono a tua completa disposizione, come sono sempre stato a completa disposizione anche degli altri, non ho problemi, ma senza essere messo in mezzo in discorsi e cose che non mi riguardano più da anni, tutto questo ve lo chiedo per favore, perché non voglio avere niente a che fare con quelle persone, io proprio zero sotto zero, proprio non... come che non esistano, capito? Io sono qua proprio in canali alti, ero già d'accordo con l'Antonio Falchetto, mi fa piacere che entrate anche voi, no, non mi interessa, non voglio avere niente a che fare veramente con quelle persone, perché è vero, no, nulla, per me il capitolo è chiuso, ognuno con la sua strada e basta così, Antonio, non aggiungo altro, capito? Ti ho promesso che qualsiasi cosa abbia bisogno, tu e gli altri, l'importante è che nel gruppo non ci siano quella persona. Io sono a completa disposizione, anche qua da casa mia, per far conoscere gli HF, per far conoscere le VHF, visto che siete tutti SW+L, non ho nessun problema. La mia casa è aperta alle persone che, ripeto, ribadisco, possono stare al mio fianco, quelle che non possono stare al mio fianco devono stare lontane, ma molto lontane, molto molto lontane, perché altrimenti veramente questa volta è... la cosa è tribola, come dice Gigi, capito? Quindi chiusi i discorsi, le mie considerazioni te le ho già fatte di persona e va bene così, sono a tua completa disposizione come ti ho promesso per te e per gli altri del gruppo, per farvi conoscere qualsiasi cosa nell'ambito della radio, ma per il resto non voglio essere messo in mezzo in nessun dialogo, in nessun canale, in nessun... fate finta che io non esista. Se lo farì anche. Il problema è che con questa radio se fa scendere la Lecce a tutti, c'è una potenza che la metà bassa, dove in qualsiasi canale vada, ci sei tu. Io guarda, sono col TS430 della Kenwood, il microfono è l'MC60. Più basso di così, più watt sono 20. Allora cosa devo attaccare la LAN 48 sono scelte di orecchi. Questa è la mia modulazione da 30 anni a questa parte, credo, perché chi conosce la mia modulazione ha sempre apprezzato questa, non quella della LAN 48 sicuramente. Può apprezzare quella del Dharma P3 che si avvicina molto a questa. E sono i migliori microfoni al mondo per conto mio. Quindi tanto, questa è la mia modulazione, va. Mickey Game, come ti ho già spiegato, le mie radio funzionano tutte così, io te le accendo tutte e quattro, questo è il 430, se ti accendo il 440 non te ne accorgi, il 140 e il 80 lo stesso, non te ne accorgi, la mia radio esce sempre così, vero Dio fa che? Si conferma, io ho conosciuto il Claudio Spalvino sempre con una modulazione, sempre con la stessa modulazione. ed è una modulazione che mi è sempre piaciuta e mi piacerà per sempre. È sempre una modulazione perfetta al 100%, senza disturbi e senza niente. Al di là del 48 sono purtroppo baracchini da battaglia, diciamo noi, e ci si può anche modulare. Però quando si vuole fare un discorso serio e tranquillo, la stazione di Claudio Spalviero penso che sia l'unica che c'è in tutto Sassari e dintorni, al mio punto di vista. Non per fare vanto a Claudio Spalviero, ma la stazione di Claudio Spalviero per me è il numero uno e resterà sempre il numero uno, sia come personaggio in verticale che come un grande modulatore della 27. Detto questo, passo il mic a Grotte. Magnato te l'hai chiamato Grotte? Anche se me l'ha giumagnato. No, poi è un bell'uomo davvero. È un bell'uomo. E anche peloso. Scusate, non ho capito. Chi ha ripreso? Allora, ha ripreso Grotte, ha detto che sia un bell'uomo. Poi ha ripreso Pomponi, ha detto che sia anche peloso. Questo è da vedere. Questo lo vedremo. Per quanto riguarda il pelo, posso fare delle foto, mettere su Facebook e poi controllate. Per me l'uomo più peloso al mondo, anzi nella Sardegna dei modulatori, è sempre Tardanetto. E allora non è di Tardanetto. Ah, sei tutto inconciuppito, Luca. Ci vede a Tardanetto e ti muove le mani in capo. Se abbiamo messo io a Tardan perché si assomiglia a Citta, uno perché è basso, l'altro perché è tutto peloso. Ma te, quando fai la cura di cortisone, stai tranquillo che ti chiedo di peggio, lo sto dicendo io. Se tu vedi a me che ho fatto la cura di cortisone per queste vacche, mi sono piaciuti di peggio. Lavorate, sembra l'orangotango, sembra. Lui quando ci vediamo te lo faccio vedere. Altro che Tardanetto sono io. E poi lei riduce, dice lui, io mi come riduce le scarpe. Oddio, non chiedo facendo la cura cortisone, ma abbiamo altro scherzato. Iniziata, questo è il terzo giorno, mi pare, il quarto giorno. Sto prendendo la pastiglia del cortisone perché ho una forte periodicità al braccio. E l'ortopedico mi ha detto che non vogliamo passare l'infiammazione. E poi vediamo cosa si può fare. Fisioterapia, balle varie, non so. E quindi sto facendo la cura cortisone anche io, ma ci picchiavo. Ecco perché ogni due giorni mi devo fare la barba, la maschera, di varia, di bacchini. E me non posso cambiare e prendere quelle pastiglie blu. Almeno invece di crescere i piedi mi si allunga l'uccello. Al limite prendi quelle rosa che c'hanno i cinesi, che ti cresce l'uccello e sta 4-5 giorni che non si ammoscia. È come quando ci metti il lattore, che è me. Hai sentito Antonio Rocco, non mi tratta, no? Prima li faccio grandi e poi a 50 anni, a 51, mi sento dire queste cose, la massa viene in varie. Cosa ha detto perché? Ha detto, sentito già tanto me lo compugno. Ha detto, lui sta facendo una cura del cortisone. E stanno crescendo tutti i piedi. E gli ho detto, guarda che la sto facendo anch'io la cura del cortisone. Da 3-4 giorni perché c'è una forte pediatrite. E quindi il medico mi ha dato la cura del cortisone per abbassare l'infiammazione. E ho detto, se crescono i piedi allora io cambio, prendo quella blu, la pastiglia, perché questa è bianca. E invece di farmi crescere i piedi mi cresce l'uccello. Bisogno, basta evitare di avere la malattia del vitello, capito? Che ti cresce la pancia e si riduce. Mi sembra che c'è qualcuno che vuole entrare, però fatelo entrare. Boh, io sento gente che parla da lontano, non so se è propagazione, che cosa sia. Boh. Facciamo entrare. Avanti, chi vuole entrare sia benedetto fra le donne, avanti. Il seno è frutto. Attenzione, Luigi, 5 di Goribibo, al canale. Chi è che chiama Luigi? Avanti. Italia, Sardine, Scumbede, Dottrice, Espresso, così. Chi è che chiama Luigi? Avanti. Le porte di Dio sono sempre aperte. Amen. Salvato Gesù Cristo, sempre salvato. Vedi come entra la suora. Claudio, tu ricordi percepiti ossi che era prezzi, che modulava malattia ultimamente. Io lo sentivo, mi era la predizia, una, due, tre volte, mi ha detto, ecco, fa la goccia, piglia il culo, amen, ha detto. Ma lo sapete che quello lì è la, quella persona che ha iniziato a coso, a Antonello Barracuda? Ciao Luigi, ti ha chiamato pure. Come, cosa, perché, cosa gli ha dato? Il baracchino Antonello, lui, no, il baracchino Antonello gli ha avuto già Paolo. Ma però sì, chi gli ha fatto vedere come si modulava era questo, si chiama padre, ricordatemi il nome, voglio lasciare perché lui può dire che ricordi come si chiama padre Remigio? No, siamo andato a non mi ricordo esattamente, comunque un giorno mi ha venuto in mancanza, un giorno io lo ricordo ancora, figurati, anzi noi mamma, una volta che era in mamma e appena entrato mi ha detto salvato Gesù Cristo, io ho detto Cristo prima mi fa dove vai a me, io ho detto sempre salvato, ho detto comunque, detto, dimmi chi si ti pare di Biagio, ma tu hai detto se non fatto la faccia la pezza non ce l'hai, detto tu ce la faccia la figlia di paranza che ho detto, e se può salire se può, tu sei maligno. Tu maligno che sia Michele Lombardi, veramente tu sei maligno, sei cattivo, morirai insieme agli amici tuoi. Quello è Don Gabino, su questo che c'era, che è morto Don Gabino Vali, quello era micidiale, quando entravi in chiesa, cioè se andavi tutti i domenici in chiesa ti sputtavano. Dentro la chiesa davanti a tutti, ti vado a pezzi. Dio, così lo so. Vito Castro, coordinateci. Palle, la propagazione sta salendo. Se entra qualcuno a segnare il bacio non lo sentiamo, stanno cominciando a aumentare qua. Chi c'era? Ricapitoliamo, io, Antonio Brode, Pomponio, Falchetto, qui c'è. Ma poi penso non ci sia nessuno. Ma se vediamo che così, Ocroni, perché mi sta disturbando questa propagazione, se ne andiamo su 10, cosa dici? Vediamo, mi sta sbratterando il brutto. Poi stanno di Corintili, che non mi ricordo il nome. Ah, Massimo Lintili. Massimo. A voi, non ci stiamo, non ci ho. Oh, mi sono messo qua, si è rientrato a Gigi, non ho capito, lo sai, lui è tra il 45. Ma dove si sta, quel tavolo ce ne è pigiato le 4. Ah, quello sì. È perché sta preparazione poi non fa capire niente, capo. Arrivi in casa 9:20, 9:30, mi sono vedo smettere impazzendo, boh. Ma come mi sa che stanno facendo effetto le pastiglie al cortisone? Se non c'è un piede nelle braccia sembra una scimmia. Tu la pigli scherzata, non è che sono davvero me, che fanno che sei di piedi in cortisone. Ti faccio vedere come hanno fatto il petto a me. E dire che quando mi hanno operato per il coso mi hanno vasato, mi sono quanto. Figurati, con la vetta che ho detto, ma come hai detto, non ce l'ho a pagare, il tuo bandiere. Buccione, sì. Cosa? Io Antonio è un bucaccione. Sto portaccio la verità, adesso tu non ci credi. Tu, quando fai la cura del cortino mi viene la risposta. Io la cura del cortino non la faccio, mi tocco anche la spuzza. Comunque ti fa crescere i piedi e poi c'è anche un altro problema, ma quello è momentaneo. Sì, vabbè, momentaneo per alcuni. Pronto, buonasera. Bellissimo Gianni Doppio Ru, buonasera. Siamo tutti sul 21, se volete venire là non c'è problema, c'è anche occhi di gara a tutti gli altri. Ok, io ho saputo solo per avvisarvi, se volete venire. Roger, ti ringrazio, ci faccio un passaggio al più presto. Papà, io vi saluto cordialmente, vedete voi, faccio piacere che avvenuto di là. Ma grazie. Cos'è Ando? Chi è entrato? Sono sul 21 e mi stava invitando cordialmente a scendere un attimino e a unirsi a loro nel caso. Scivola, ha detto che è entrato quello che scivola. Ma dai, se devi andare anche tu, non ci offendiamo noi, no? Quando io non mi permetto mai di andare nei canali comunque invitare la gente a andare a modulare. Questa mancanza di rispetto nei confronti di chi fa radio. fatto con un ragazzo. Mi mettete davvero in una condizione poco piacevole e questo mi dispiace molto. Guarda, io sono abituato a queste cose, ripeto. Io non mi sono mai permesso di avere i canali degli altri, è solo perché sono in due, andare nei canali dove c'è più traffico e dire a uno vieni nel mio canale. Comunque, ti ripeto, io non ho nessun problema, io sono qua e dove ci sono io c'è gente, su questo te ne sei già accorto, perciò vedi tu, se devi andare vai pure, ti hanno invitato, quindi vai, non ci sono problemi, altro, non ti preoccupare, non ci offende nessuno qua. Va bene, a me sembra che l'invito sia stato fatto a tutti, comunque non è così, cosa vuol dire se vuoi andare qua? Andi rapini, va. No, non si permetterebbe mai di farmi nessun invito. È già troppo che l'ho fatto parlare qua. Perché mi sono distratto, mi ha distratto mia figlia, ho sentito solo la modulazione. La prossima volta non si deve neanche permettere per il canale dove sono io. E prendi Forchetto. Positivo, ha scivolato bene stasera, ha dimostrato che ha scivolato bene. Non voglio usare altri termini brutti, no? Comunque già chi ha orecchie intenda, diceva quello, vai Pomponi. Chi non intenda è il roulotte, come diceva Pomponi. KK, già mi sono capito io, già mi ha capito anche Claudio. Cosa intendevo dire, dai, va bene così, dai, vai Pomponi. Aspetta, campa partire, dai, però buttiamo un attimino sul ridere, perché sennò davvero è tripula la situazione. No, lui ha fatto benissimo la persona da caffone, perché c'era un QSO, lì è entrato subito, bla bla bla, e allora vattene a far culo, che cazzo vuoi? Quando stiamo modulando, devi fare il QSO, non devi mettermi dalle palle, capito? Io sono fatto così. Ok, cosa vuoi dire? Prendi Pomponio, raccontaci una barzelletta, cosa hai fatto oggi? Raccontaci una balla, ancora non sono di più malaggio. Una balla che ti tiene in testa, dove sono una barzelletta? E comunque dai, c'è il tuo catartico adesso, riprendi Claudio. Oh, io mi diverto, no? Come si dice, di sopravvivenza, capito? Ho dimostrato che per fare la radio ci vogliono le palle, no? Non ce ne sono altri discorsi, Antonio, te l'ho già detto, ho chiuso con i miei discorsi e con la cattura, ma manco, non mi interessa, però la prossima volta non si deve permettere di entrare in casa dove sono io, perché non mi permette di entrare in casa dove c'è lui, soprattutto la gente che sta parlando con me, per questo è proprio un senso di maleducazione nei confronti della gente. Quindi, siccome io sono abbastanza educato e sono nel mio canale, sto parlando con le persone con la quale sto condividendo un QSO, chiuso il discorso. Forchetto, fai da bravo, non ti abbassare mai alle provocazioni. Ok, detto ciò non ci sono problemi. E cosa stavo dicendo? Massimo di vediamo un po' se c'è questo Massimo di perché ha detto che poc'anzi aveva difficoltà a ascoltare, non so a chi, sentiva a me molto forte, ma se sei a Itri io sono davanti a te. Massimo di Itri, vieni avanti per Claudio Sparviero. Nelle 45. Che palle, questo sempre chiamando per le 45. Che appagata, ma non è questione, io già lo sai come sono fatto, Claudio. Sì, mancanza molto del rispetto, vabbè, detto questo non me ne può fregare nulla, comunque. Va bene che va bene. Ehi, da Itri, aiù, scia due passi da me, caspeggina. Dalle un po' di gas, vai. Ma comunque conviene spostarsi un attimino di canale, come stavi dicendo, Fabio, perché c'è una propagazione, una spaccatura qua, eh? Andiamo nel canale 40 allora, dai, rimaniamo nei canali alti, canale 40. Scappa, io sono 40, io. Di questa banda? Sì, canale 40, 27 405. sento anche che chiama, mi pare Roberto Criminal, mi sa che ci sta anche Roberto Criminal che chiama Gigi Vulcano.